versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:36, primi 9 secondi di questo giovedì 7 novembre. Grazie sempre, continuate anche ad ascoltarci in podcast quando non potete, moltissimi di voi lo fanno, grazie, siete in crescita, ascoltare a quest'ora Radio 24. Allora, questo 7 novembre noi non ci occupiamo naturalmente della notizia clou, di cui, per la quale vi rimando poi a Focus Economia subito dopo. Dal punto di vista finanziario, oggi è la giornata del ribasso dei tassi, molto a sorpresa perché più non se lo aspettavano da parte della BCE. Non ci occupiamo neanche della legge di stabilità, dove pure ci sono novità tutte da valutare, nel senso che per esempio lo sconto della bolletta economica che era stata promessa e che veniva coperta con dei bond, cioè più debito emessi dal gestore dell'energia elettrica, non ci sarà, perché ovviamente l'Europa ha detto che sarebbe un aggravio del debito pubblico, quindi non ci sarà dal risparmio in bolletta economica. No, ci occupiamo oggi di una grande società dei trasporti che già abbiamo citato quando la settimana scorsa, ve lo ricordate, abbiamo fatto la geografia e una riflessione della geografia delle grandi municipalizzate italiane e delle 7400 società di primo livello controllate dalle autonomie e dalle diverse decine di migliaia poi a loro volta partecipate. C'era il professor Scarpa, se vi ricordate, e ci ponemmo il problema se non fosse venuto il momento, dopo anni di inattività del centro, perché non c'è neanche un'anagrafe per così dire aggiornata presso il tesoro di tutte queste società, se davvero si potesse fare qualche cosa o meno. Ecco, e citammo quel giorno una delle, anzi la più grande società dei trasporti, l'ATAC pubblica, stiamo parlando dei trasporti a Roma, la citammo per via del suo elevato indebitamento, per i suoi 11.800 dipendenti, per i suoi quasi 90 dirigenti di prima fascia. Oggi ci occupiamo di una importante prova di a che cosa serve il giornalismo, secondo me. Quando tutti dicono, ah, i giornalisti bravi semplicemente a dare opinioni, a non fare niente. No, poi chi fa le inchieste sul campo, che fanno fare grandi passi avanti alla comprensione di come non funziona in tante parti d'Italia, c'è come. Oggi c'era una di queste prove su Repubblica. Su Repubblica, a pagina 17, trovate un'intera pagina dedicata da due colleghi di Repubblica, Carlo Bonini e Daniele Euteri, a un passo avanti rispetto a una società che è già indagata da molto tempo per quello che avviene e non torna là dentro. E questi colleghi scrivono di che cosa avviene ogni anno, da diversi anni, non solo, e lo vedremo nel fatto che i dirigenti, anche se cambia il colore delle amministrazioni, restano in larghissima misura con un patto trasversale lì e si scambiano le poltrone. Qui saremmo nella consuetudine, nella mala consuetudine dell'amministrazione pubblica italiana. No, tira fuori una, i due colleghi tirano fuori una vera bomba atomica, per così dire, che sta nelle carte degli investigatori, però loro la tirano fuori e la offrono alla comprensione, anche allo sdegno popolare, a giudicare da quello che da stamattina c'è sui social network a Roma. È partita un'immediata cosa su Facebook, Roma non paga l'ATAC, è partita una autoconvocazione di cittadini per domani mattina alle 11 a via Prenestina 45, dove c'è la sede legale dell'ATAC. Perché, ecco, se non avete letto Repubblica, e io questi minuti li dedico a uno dei due colleghi che hanno seguito questa pista e che hanno scritto questo articolo, Carlo Bonini, che è qui con noi e che io ringrazio. Grazie Carlo, buon pomeriggio. Grazie a te, buon pomeriggio a tutti. Allora, cominciamo dalla cosa più esplosiva, perché voi descrivete un meccanismo per il quale si aggira la contabilità di bilancio ogni anno con una cosa che apparentemente a leggerla uno si strappa i capelli e si struscia gli occhi dicendo ma non è possibile che in un'azienda di quelle dimensioni possa avvenire da anni con un tacito accordo di manager, di chi evidentemente la politica controlla. Cioè voi dite che ogni anno ci sono 70 milioni di euro che derivano in maniera illecita dal fatto che i biglietti della cui stampa l'ATAC è ovviamente responsabile garantiscono da anni una maniera per fare soldi neri fuori dal bilancio, la bellezza di 70 milioni di euro l'anno, è così? Beh, può sembrare stupefacente quello che noi scriviamo questa mattina, in realtà adesso proverò a spiegare o almeno a dire quello insomma, che lavorando per circa due mesi su questa vicenda poi io penso di poter dire con serenamente, cioè che la cosa più stupefacente di tutto ciò è che, come al solito, ci sono, diciamo, dei momenti rivelatori che sono, si scopre poi sono sotto gli occhi di tutti. Mi spiego. Allora, un anno e mezzo fa, per chi non avesse letto l'inchiesta, insomma, probabilmente gli ascoltatori di Roma lo ricorderanno, un anno e mezzo fa la Guardia di Finanza di Roma fa un'inchiesta, fa una delle sue tante inchieste e scopre un giro di contraffazione di biglietti dell'ATAC. La notizia viene in qualche modo, all'epoca, parliamo di un anno e mezzo fa, assorbita dal metabolismo dei media, assorbita dal metabolismo di ferro di una città come Roma, come una delle tante, diciamo, curiosità, curiosità del paesaggio. Poco più di una notizia di colore, insomma. C'è la notizia degli avvisi di garanzia, però sì, non si capisce. Sì, no, biglietti clonati, cioè quando si parla di biglietti falsi, biglietti clonati, si intende questo. Biglietti che hanno, sono duplicati nel loro numero di serie. Io, anziché stampare un biglietto 1 e poi un biglietto 2, stampo due volte un biglietto 1, due volte un biglietto 2, due volte un biglietto 3. Che ricorda l'esatta tecnica dello scandalo della Banca Romana del 1893. Esattamente, la stessa cosa. Esattamente. Dopodiché l'ATAC è la distributrice in esclusiva di questi biglietti, che stampa anche in esclusiva, o comunque che fa stampare eventualmente su espressa autorizzazione, che vengono poi consegnati ai rivenditori ufficiali. Naturalmente i rivenditori ufficiali che ricevono questi biglietti dell'ATAC non possono immaginare che stanno vendendo, diciamo, biglietti doppi o addirittura tripli. Che cosa succede? Che questi biglietti poi vengono immessi, vengono venduti agli utenti, i rivenditori ufficiali incassano, trattengono la percentuale della rivendita e poi versano gli incassi all'ATAC. Questi biglietti poi vengono utilizzati. La logica ovviamente vorrebbe che, come in tutti, diciamo, come in tutte le aziende che si occupano di mobilità, il biglietto, una volta obliterato, una volta quindi annullato, saliti sull'autobus, venga registrato in una lista, certo, dei biglietti obliterati. Le due liste, quello dei biglietti stampati e quello dei biglietti obliterati, in una, diciamo, fisiologia dovrebbero poi sovrapporsi, consentendo di dire che il biglietto 1 è stato venduto, è stato stampato, consegnato al rivenditore, venduto, obliterato, e quindi il biglietto 1 è fuori dal circuito e rispetto al biglietto 1 c'è un incasso di un euro. È chiaro che se io nel frattempo ne ho stampati 3 di biglietti 1, che cosa devo fare? Devo fare in modo che, una volta obliterati, questa, diciamo, lista dei biglietti obliterati non venga mai ricongiunta alla lista dei biglietti stampati, altrimenti io mi accorgerei che ci sono 3 biglietti 1 in circolazione, che è esattamente quello che avviene in ATAC. Cioè, le due liste, quella dei biglietti stampati e quella dei biglietti obliterati, non vengono mai ricongiunte. L'effetto qual è? Che tutti gli incassi dei biglietti doppiati, clonati, chiamiamoli così, falsi se si preferisce, quindi diventano denaro contante, liquidità, che non risulta da nessuna parte. È come se una specie di banda clandestina battesse denaro illegittimamente. Esattamente. Ora, dicevo prima, cos'è che, diciamo, la Guardia di Finanza un anno e mezzo fa scopre questa roba qui. E sì, la cosa viene trattata come notizia di colore, perché si immagina la truffa della solita banda, diciamo, da crimine organizzato, da ladri di biciclette. In realtà, la cosa è molto più seria. Ma la cosa è molto più seria per un dato, che è un dato ufficiale, non è un segreto, ed è nel bilancio dell'ATAC del 2012. Nel bilancio dell'ATAC del 2012 risulta che l'azienda, a fronte di 1 miliardo di passeggeri trasportati nell'arco dei 12 mesi, incassa, ricava dalla vendita dei biglietti soltanto 249 milioni. La forbice tra i passeggeri trasportati e l'incasso da biglietti è talmente ampia che non può essere spiegata evidentemente con il tasso fisiologico di portoghesi che salgono sugli autobus. Anche perché, come voi giustamente mettete in pagina, se uno paragona per esempio a Parigi 3 volte il numero dei clienti, cioè non 1 miliardo ma 3, 9 volte la quantità degli incassi, 2 miliardi e 300. Esattamente. Quindi, se è vero che a Parigi si incassa 9 volte che a Roma, a fronte di 3 volte i passeggeri, c'è qualcosa che non torna. Direi che c'è qualcosa che non torna. Allora, aspetta un secondo, un minuto di informazione stradale, poi torniamo con Carlo Bonini sullo scoop. La stampa clandestina di denaro annegata nella mala gestione dell'Atac Roma. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:47, 13 secondi. Eravamo arrivati a questa cifra che dal bilancio stesso dell'Atac nel 2012 rende evidente che con 1 miliardo di passeggeri avere solo 249 milioni di ricavi da biglietti, perché noi di questo stiamo stampando, di liste di biglietti stampate che non tornano e non vengono ricongiunte con quelli obliterati, questa cifra non torna perché a Parigi 3 volte il numero di clienti, 9 volte la quantità degli incassi. Però quando questa notizia, i primi avvisi di garanzia escono fuori l'anno scorso, nessuno va a capire bene di che si tratta, e stamattina invece su Repubblica Carlo Bonini e Daniele Autieri ci fanno capire meglio il marcio che c'è dentro, perché qui si tratta evidentemente di una pratica che ha bisogno della connivenza di vertici manageriali, che vive da anni, e nell'azienda evidentemente qualcuno chiude gli occhi, in parecchi chiudono gli occhi. Non è ipotizzabile che, ovviamente, essendo un'azienda molto politicizzata, anche la politica non abbia del suo. O sbaglio, Carlo? No, non sbagli. E tra l'altro l'inchiesta parte esattamente da questa constatazione, cioè da una domanda molto semplice. Com'è possibile che un'azienda non si difenda rispetto a un'emorragia di liquidità di questo tipo? E come dicevi giustamente tu, com'è possibile che lo faccia un'azienda che ha la politica nel suo, diciamo così, la politica innerva l'Atac, l'ha gonfiata come un pallone, l'Atac ha 12.000 dipendenti, in un rapporto tra personale amministrativo e personale in strada di 3-1. Allora, noi siamo partiti esattamente da questa domanda, dicendo non può essere una questione di una banda di truffatori di scalzacani che la fanno in barba a un'azienda di questo tipo per queste cifre, e abbiamo cominciato a fare un po' di domande. La prima scoperta che facciamo è che l'Atac sa, non solo sa, ma a tal punto è allarmata che il collegio sindacale nell'estate dello scorso anno incarica un team di esperti, ingegneri elettronici, manager, contabili, di approfondire gli aspetti di questa truffa. È un lavoro molto lungo che produce un audit interno di 370 pagine. Ah. E che però resta totalmente riservato. Resta totalmente riservato, non solo resta riservato all'esterno, resta a quanto pare totalmente riservato e segreto all'interno dell'azienda. È un report che viene portato agli occhi, come direbbero gli anglosassoni, soltanto dell'allora amministratore delegato, il quale decide di consegnarlo alla Procura della Repubblica. In questo audit interno i toni, la nettezza e la con cui il team si esprime è, come noi scriviamo oggi sul giornale, mi pare inequivocabile. L'audit interno parla di chiesette interne all'Atac, parla di complicità e connivenze interne all'azienda, parla cioè dell'impossibilità che una truffa di questo genere avvenga senza una sponda interna, e dice una cosa ancora più grave, dice il sistema di bigliettazione dell'Atac è indifeso, cioè un'azienda di queste dimensioni non è in grado di proteggersi da una truffa di questo genere. E allora, se non è in grado di proteggersi, è perché non ha voluto proteggersi, ma se non ha voluto proteggersi ci sono delle connivenze interne, è possibile fare un passo successivo, ed è l'ulteriore passo che noi facciamo. Che porta troviamo, dove? Troviamo 3 fonti diverse. 2 sono manager del trasporto pubblico capitolino, vecchi, diciamo così, lupi di mare del trasporto capitolino. Quando dico vecchi lupi di mare, perché qua si dice a Roma, c'è un modo di dire a Roma, secondo me vero, che il vero sindaco di Roma non è il sindaco, non è forse neppure l'assessore alla mobilità, ma è il presidente, sono il presidente e l'amministratore dell'Atac, perché sono loro che assicurano a questa città la scarsa mobilità che ha da sempre, ma sono loro che decidono se far collassare o meno questa città, o se farla camminare. Ora, queste 2 fonti ci raccontano quello che accade all'indomani delle elezioni di Alemanno, e ce lo raccontano come io lo sto raccontando a te, cioè come una cosa assolutamente normale. Addirittura, sono sorpresi dall'apparente stupore con cui noi registriamo il loro racconto, che è un racconto che comincia nel 2008, ma che in realtà comincia ancora prima. Comincia cioè quando la destra arriva a Roma, quando pubblicamente si annuncia un spoil system robusto, necessario, anche crudele per certi aspetti, per ripulire la città e soprattutto le ex municipalizzate, le società pubbliche controllate dal comune, di tutte le incrostazioni, gli servizi, gli sprechi, le malversazioni che potevano aver, diciamo così, depositato 10 anni ininterrotti di governo del 15 anni ininterrotti di governo del centro-sinistra. Non accade nulla, non accade assolutamente nulla, e anche questo è un fatto sotto gli occhi di tutti. Alemanno, dopo aver picchiato il pugno sul tavolo, lascia tutti i manager del trasporto pubblico al loro posto. Tutt'al più c'è un piccolo giro di poltrone. E voi scrivete, ti lo dico solo perché poi tra 2 minuti dobbiamo, sì, che in maniera un po' analoga la stessa cosa per il momento avviene dopo la vittoria di Marino. Documentate nomi e cognomi, le poltrone che cambiano, però in buona sostanza. Esattamente. Marino sostituisce l'amministratore delegato di ATAC, ma il precedente amministratore delegato viene messo in posizione altrettanto apicale, e il nuovo amministratore delegato di ATAC, come noi scriviamo, entra in una foresta pietrificata. Abbiamo poi l'ultima conferma, c'è cioè un'ulteriore fonte interna attuale, sì, di ATAC, il quale ci racconta che, non contenta l'azienda, dopo quel primo report ne fece un secondo, ne ordinò un secondo, che però questa volta non vede la luce neanche nella forma riservata della di una consegna a brevi manu. Allora, diciamola tutta, i sospetti e le indagini portano al fatto che sono i manager tra loro soli o sono soldi che vanno alla politica? No, le indagini portano a questo, a questo sospetto fondato, non fosse altro per l'entità del denaro di cui stiamo parlando. Stiamo parlando del 30% del totale degli incassi annuali dell'ATEC, questo è. E quindi dici, vista l'entità? E vista l'entità, e visto quello che racconta ci racconta questa fonte interna di ATAC, quei soldi in buona parte finiscono a finanziare in modo assolutamente bipartisan la politica capitolina. Allora, io devo fermare il collega che ringrazio, Carlo Bonini, leggete, quello che c'è su Repubblica, leggete nei prossimi giorni, appuntamento a domani, continuate su Radio 24, i giornalisti bravi servono e come!